leggermente in ritardo, quindi evitiamo la situazione traffico che a quanto pare sembra, non dico fluida, ma abbastanza scorrevole, perché puntuali Silvia e Stefano già in diretta con noi, ai quali do il buongiorno. Buongiorno, buongiorno Silvia. Buongiorno Willy, buongiorno a tutte e a tutti. Hai messo a posto un po' tutti i contenitori da playlist letteraria, ma soprattutto strana playlist musicale. Sì, oggi playlist musicale etnica. Ah, bene, bene, siamo molto curiosi, ma certi di ascoltare buona musica. Oggi che hai portato di bello da leggere, Silvia? Un libro etnico. Ecco, certo, va da sé, che domanda banale, la palissiana, da dove? Dunque, l'autore è libanese, però la storia raccontata è egiziana. Medio Oriente, quindi. Sì, nel Medio Oriente. Il libro si intitola Ti ho amata per la tua voce, edito da E.O., l'editore Selim Nasib. Ok, che non conoscevo. No, neanche io. Pare che sia un giornalista appunto di origini libanesi che lavora in Francia. È un bel libro, diciamolo subito, se no non togliamoci il pensiero, se no non lo portavo. A volte capita, ma è sì, un però caso eccezionale. In questo caso è bello. È bello, è la storia della più grande cantante egiziana del Novecento. E detto così, cioè, sono andata anche a vedere dei video di questa signora, sembrerebbe la storia di Nilla Pizzi, però nel senso che rose rosse dal Nilo, ma soprattutto perché anche come struttura fisica, diciamo, e apparenza. Adesso sono seria. Invece è un libro molto importante, perché almeno per due motivi. Perché ti fa conoscere una parte, una bella fetta della storia egiziana, e soprattutto ti fa vedere come la cultura musicale si intrecci con quella poetica in Egitto, e come abbia un'importanza che da noi se la sogna. Sì, insomma, faccio breve. Confermo. La faccio breve. Il libro è tutto raccontato dalla voce di uno dei poeti, nota bene, non si parla di parolieri, si parla proprio di poeti, dei poeti che scrivevano i testi per questa cantante. Mannaggia a me non aver chiesto informazioni sul testo che portavi quest'oggi, perché ho un'ampia rassegna sulla cultura sufi. Ah, peccato. In effetti i testi sono portati da poeti sufi e allora, interpretati anche da voci femminili. Naturalmente la storia è romanzata, però questo signore è veramente esistito, quello che si immagina raccontare la storia in prima persona, e ha seguito questa cantante dagli anni 30, quando ha iniziato, fino a 75, quando è morta, ed è quello che ha scritto il maggior numero di testi per lei, testi che sono poesie, perché poi questo tipo di musica, che veniva accompagnato anche da grandi virtuosi, soprattutto del liuto e di questi questi strumenti di cui io non so il nome, ma nel libro ci sono ma non me li ricordo, questi testi erano delle vere e proprie poesie, che spesso non erano cantate ma erano recitate, era un recitar cantando anche, quindi ci voleva anche una grande abilità performativa, oltre che una capacità di modulare la voce in maniera sempre diversa. Quindi, insomma, già questo ti spiazza un po' all'inizio, perché o ti fa capire appunto come siamo di fronte a un altro modo di vedere il mondo. Insomma, questa non è la Pat Smith dell'Egitto. Questa è una grandissima performer che è riuscita ad attirare a sé, a diventare una sorta di dea, e ad attirare a sé le folle dapprima dell'Egitto, ma poi di tutto il mondo medio orientale e arabo. Sì. Perché a un certo punto lei ha fatto dei grand tour nei paesi arabi, e ovunque andasse era veramente accolta come una regina. Tra l'altro, siccome lei comincia prima degli anni 30, alla fine degli anni 20, e va avanti da bambina quasi, e va avanti a cantare fino a che muore nel 75, lei riesce sempre a stare a galla, se vogliamo, ma non perché sia un opportunista o altro, proprio in virtù delle sue capacità vocali, prima naturalmente canta quando c'è il re Farouk, canta contro il re Farouk, appoggia Nasser e, insomma, non so se mi spiego, canta canzoni pro Egitto, pro canzoni patriottiche, e poi quando c'è la rivoluzione continua a cantarle e gliele lasciano cantare perché è lei, perché chiaramente non possono tappare questa voce, perché è diventata la voce dell'Egitto. È trainante, è trascinante, sì, carismatica. Lei... Pensate anche alla bellezza di poter conoscere la storia. Sì, infatti, lei può fare quel che vuole. Arriva a un punto che lei può assolutamente scegliere sul suo repertorio, i suoi poeti, fare quello che vuole, perché è la donna più potente dell'Egitto, si può dire, sì. E non solo. La storia è bella però, perché è raccontata da questo signore, da questo poeta, che per tutta la vita le è stato accanto e che chiaramente era innamorato di lei, però non è mai riuscito a combinare niente, perché lei era troppo lontana da un certo punto di vista. Quindi è la storia di un grandissimo amore platonico. Bello. Che si trasforma in un'ossessione. Ah. Lui si sposa, ha dei figli, però a un certo punto la moglie lo abbandona. Perché lui lo sente distante. Sì, lo sente distante. E poi perché quando questa donna lo chiama, devo andare in tourneo. Non c'è altro. Lui anche in piena notte, lui fugge, lui va. E questa donna che si intravede, ma il libro è molto molto delicato, che probabilmente preferisce le donne agli uomini. Quindi questo è un altro dei motivi per cui non corrisponde. Più tardi si sposerà con un medico, non si capisce se sia un matrimonio di convenienza, di facciata. Certo è che anche dopo sposata la moglie ritorna dal nostro poeta, per cui anche ognuno dei due ha la sua famiglia eccetera, però rimane questo enorme legame, perché se è vero che lei non corrisponde questo amore da un punto di vista fisico, diciamo, però è altrettanto vero che anche lei in qualche modo è ossessionata da lui e che anche lei sente che lui è il suo poeta, è l'unico che può veramente farle cantare le parole che lei preferisce. Quindi a modo suo innamorata dell'artista. Sì, è vero, hai detto la cosa giusta, lei è innamorata, ma tutte e due sono certo. Innamorati prima che della persona si corrispondono dell'artista. In quel modo, perché poi lei non è una donna che abbia ha un'apparenza carismatica, ma non è che sia una donna bellissima o altro. Quando lui la scopre, lei è una ragazzina di 18 anni, così, non lo so, meno di 20 anni, che canta vestita da uomo, che canta vestita da maschio, perché chiaramente il canto non sarebbe un'attività degna da fare, soprattutto per strada, da fare in pubblico per una donna. Quindi il padre, che ha capito che ha delle qualità che sono assolutamente fuori dalla norma, le consente di cantare soltanto vestita da ragazzino. Per cui il nostro narratore, quando la vede la prima volta, resta sbalordito da questo giovane che ha una voce bellissima, una voce che senza genere, se vogliamo, una voce assolutamente bellissima. Poi va a trovarlo nel camerino dove ha finito il concerto e scopre che è una ragazza. E da lì nasce diciamo questa collaborazione che poi andrà avanti fino per quasi mezzo secolo. Sì, posso dire willato, questo sì. È un willatissimo, mi sembra un willatissimo, un amore che è basato sull'espressione artistica, un amore che non si realizza, un amore vissuto con una passione tale, seppur lontano, ma così vicino per i contenuti di espressione e di introspezione, la difficoltà, lui si sposa, addirittura arriva ad atteggiamenti estremi, allontanandosi dalla moglie. No, è la moglie che si allontana. No, lui si allontana per seguirla in tournée. Sì, sì. Lui si allontana per seguirla in tournée. dal matrimonio si allontanerà la moglie perché non ne può più. Come darle torto, del resto anche in questo caso non voglio sempre difendere l'artista svolazzante, chi più ne ha più ne metta, anzi mi rendo conto. Qui non c'è svolazzo, qui è proprio una un'ossessione veramente. Lui si sente legato a questa donna in maniera molto più forte che con un legame coniugale. Certo, perché quello che appunto ho citato in precedenza lo rende veramente saldo e molto appassionato, seppur che di ecco, passione è più per l'arte. Diciamo che, per... che da un certo punto di vista quello che veramente infastidisce la moglie ancora di più del fatto che lui a qualsiasi orario è pronto per fuggire, allontanarsi, sono le parole che lui scrive per lei. Ah, ci credo, quello che resta scritto poi è tremendo. Insomma, seppur bellissimo, attenzione, scrivete lettere d'amore, che è una delle cose più belle che si possa esprimere. Io sono molto curioso. Però magari, magari se siete fidanzati, state attenti e scrivete lettere d'amore a un'altra donna, non fategliele cantare in pubblico. No, state attenti, esattamente. Quindi, playlist, sono molto curioso. Con che brano iniziamo? Allora, siccome volevamo fare una playlist un po' esotica, diciamo, un po' come ho detto prima, etnica. Etnica soprattutto, è stata abbastanza difficile trovare dei brani, quindi, e quelli che abbiamo trovato sono etnici, però insomma, ecco, per esempio, su YouTube trovate un sacco di filmati di Uma Kultum, però mi sembravano poco radiofonici. Certo. E poco dalle 8 del mattino. Anche i brani che abbiamo portato stamattina non sono proprio quelli che ascoltiamo di solito, quindi partiamo dal più semplice, che non è un brano etnico, diciamo, cioè, ha un andamento etnico, ma è un brano fatto da un compositore occidentale, Michael Dunn, per il bellissimo film Exotica di Atom Egoyan, che se non l'avete visto, vedetelo, è un gran film. Something Hidden è il brano, qualcosa di nascosto, l'ho tradotto bene, yes. Meno male, anche l'affermazione in inglese, per cui vuol dire che ho fatto un buon lavoro di traduzione. Tra l'altro il brano ha un'attinenza molto cinematica dal compositore Michael Danna. Sì, è molto visivo questa struttura musicale, aggiungo che la struttura musicale medio orientale, come ho portato in precedenza, soprattutto nella cultura sufi, ha dato voce ai grandissimi poeti nel Sufi, la poesia, la musica, la letteratura è stato elemento fondamentale, è la parte dell'Islam culturale più profonda. Sufi, nome di un tessuto, perché un tempo i monaci di quella corrente si recavano nei paesi a portare le loro composizioni vestiti unicamente con quel tipo di tessuto. La musica Sufi è stupenda, la poesia Sufi non l'ho tradotta, ma l'ha tradotta Susan Dehim dalla Persia, una delle mie musiciste preferite, spesso la propongo, definita la voce di Dio. Pensa, una donna la voce di Dio, per cui è arrivata a dei livelli artistici molto molto importanti. E non solo, tante altre hanno dato la voce non solo alla poesia ma anche ai contenuti, come è stato presentato poc'anzi da Silvia nel libro, da cui ripeteremo titolo, autore e casa editrice, anche all'aspetto sociale. Ecco, questa una rapida descrizione di quello che è l'aspetto, in sintesi, nel contenuto tra musica e letteratura in cultura Sufi. Grande importanza, nonostante quello che troviamo al giorno d'oggi negli integralismi religiosi, per la presenza delle donne in tutti gli aspetti nella cultura sufista, corrente islamica assolutamente culturale. Infatti i Sufi non sono fondamentalisti. No, assolutamente. Proprio, non sono integralisti, fondamentalisti. Certo. Infatti. Bene, è in palio. Sì, sì. Oh, questa è un'altra bella notizia. Se no lo acquistavo e lo mettevo in palio io, perché mi è piaciuta tantissimo la descrizione che ne hai portato, la presentazione e anche i contenuti, insomma. E aggiungo anche le edizioni, sono le uniche notizie che mi sono rimaste, cioè e o le due con le due congiunzioni, ecco, per quanto riguarda la grammatica. Ma è una casa editrice che dà uno sguardo veramente esteso in tutto il mondo, e ne abbiamo la prova con questo lavoro. Quindi a te l'autore e il titolo. Allora, il libro è Ti ho amata per la tua voce, titolo quanto mai azzeccato. Sì, molto immediato, ma rende l'idea. No, sì, anche perché in originale si chiamava che è il nome della donna, ma un libro chiamato forse non colpiva altrettanto. Ti ho amata per la tua voce, l'autore Selim Nasib. È venuto un altro nome che come titolo era immediato, che era Uz. Ah, Uz di Chatwin, magnifico. Di Chatwin, libro uno dei libri più belli di Chatwin, confermo. Forse il più bello, perché è un libro piccolino, sottile, sottile, ma è scritto in un inglese purissimo. E oltretutto è bella anche la storia. Ah, bella anche di la questo storia, collezionista, certo, di porcellana. Sì. Comunque, tanto per dirti, due cose che stupiranno i lettori, perché a me hanno colpito. Lui la chiama, raramente la chiama col suo nome, o la chiama la mia diva, e questo va bene perché è una diva. Sentiamo quello dopo. La mia contadina. Ah! Perché lei veniva proprio da una famiglia di campagna, dalle profondità della campagna, e aveva, specialmente inizialmente, sia quando vestiva da ragazzino, sia quando all'inizio, quando smette i panni da ragazzino, aveva questi modi da contadina, non era una donna raffinata. Rustici. Per quello che ti ho detto, a me faceva venire in mente Nilla Pizzi, che veniva da Sant'Agata Bolognese. Una sdaura, ecco. Una sdaurina, perché c'ha 20 anni all'inizio. Però, ma è bello perché anche alla fine, che è la donna più importante praticamente dei paesi arabi, pare che ci sono anche, mi sembra, le immagini in YouTube del suo funerale, un funerale dove ha partecipato tutto il Cairo, e la bara se la passavano le persone per strada, capisci? Talmente quanta la sì, presenza perché di la volevano, folla oceanica, la volevano toccare. La volevano toccare, e allora la continuano. E questa è storia vera? Questa è storia vera, sì, questa è storia vera. Ti dico, ci sono i filmati, si vedono. Sì. E visto che hai fatto un paragone con Nilla Pizzi, io mi auguro di tutto cuore, ci auguriamo di tutto cuore, una colomba bianca vola sopra il Medio Oriente, visto le condizioni attuali, insomma, sarebbe opportuno dedicare, ma non l'abbiamo in playlist. No, non ce l'ho in playlist. La pace, non sono, la auspichiamo. Non sono ancora Alfredo Pasquali. Queste sono le sue playlist. Ieri ha messo la colonna sonora della Sirenetta. Io l'ho sentito, l'ho sentito ieri. Mi sono... E poi ero anche in rassegna stampa. Ma io dissi, ma cos'è sta roba? Ma cos'è sta bellezza. Roba? In fondo al mare. Abbiamo il quiz. Sì, ecco, il quiz, ecco, devo dire una cosa. Il quiz è molto difficile. Aia, ma il libro è molto bello. Il libro è molto bello. Magari se nessuno, se dopo la pubblicità nessuno ha risposto, daremo qualche aiuto. Aiuto. Okay. Però volevo provare a fare un quiz al quale non si potesse rispondere soltanto digitando su Google. Ok. Ho fatto anche l'esperimento. Allora, dunque, c'è un racconto molto famoso di un famosissimo scrittore indiano che comincia con queste parole. Premetto, il libro parla, ovviamente siamo in Egitto, quindi uno dei punti cardine della storia egiziana è la nazionalizzazione del canale di Suez da sì. parte di Nasser nel 56. Quindi ecco, c'è questo famosissimo racconto scritto alla fine dell'Ottocento da uno dei più famosi scrittori indiani del tempo, dei inglesi del tempo. Inizia con queste parole: a est di Suez, dicono alcuni, cessa il controllo diretto della provvidenza. Io voglio sapere chi è che ha scritto queste parole. E lo potete appunto... Buttatevi a indovinare. 333-180-9494. Tanto non vi dà il voto, eh. Non vi dà il voto, non sì. Non vi dà il voto, anzi siete assolutamente accolti con un caloroso abbraccio. Puoi ripetere... Sì, a est di Suez, dicono alcuni, cessa il controllo diretto della provvidenza. È l'incipit di un famosissimo racconto... A voi la risposta. L'autore. A più tardi, eventualmente, altri... Indizi. A tra poco con la pubblicità. Stiamo ascoltando, che l'ho già lanciata. Suad è una cantante egiziana, questa veramente. Il nome ce l'hai sotto tu nella copertina. Lo dico dopo la pubblicità, va bene il sì, titolo. Guarda, ci provo. Il brano che. No, il brano fa. Il titolo lo so, il titolo è in francese, Le Bonne et le Mal, ma invece non mi ricordo il nome della signora, Suad qualcosa. Massi. Suad Massi. A tra poco, buon ascolto. 333-180-9494. قبره كاين اللي شاف في صارو كرهنا من الحياة كاين يبكي على زهره كاين اللي حيبكي في قبره كاين اللي شاف في صارو تنفنا لوقات كتلاقى الحق مع الباطل ماشك في الخطوة خلاص القى الحل باش يحكم غدوة بين ركعيان قالو حفيت من المشية وزادلو باريلي نعملو كي سرج الحصان كاين اللي يبكي على زهرو كاين اللي حيبكي في قبرو كاين اللي شاف صارو تلفو كاين اللي يبكي على زهره كاين اللي حيبكي فوق قبره كاين اللي شاف وساره كرهنا بهاد الحياة كاين اللي يبكي على زهره كاين اللي حيبكي في قبره كاين اللي شاف يساره تلفونا لوقات ياك الحق ما شك في قواله وطلع فوق ظهره كامل الناس اصبح حاره وابدأ يبكي على زهره كل اللي حيبكي قبره كل اللي شاف ساره تلفون له. Torniamo in diretta al Voltiamo Pagina anche per proclamare la prima vincitrice. Beh, potrebbe esserci anche un vincitore nel succedersi della presentazione nei nostri due lavori appena usciti. Intanto hai messo un brano che appunto ci porta alla festa per proclamare la vincitrice, cara Silvia, della tua selezione. Molto più festoso questo che stiamo ascoltando nel rientro in diretta. Intanto è giusto poi riportare tutte le risposte esatte. Una domanda che tu hai giustamente, io non lo sapevo, ad esempio, complicata, però Andrea risponde: non è il vincitore, il nostro super campione, ma ha risposto giustamente. Kipling, risponde anche Luigi di H. Lawrence. No. Questa no, è no. Risposta anche oltretutto non esatta. Ringraziamo Rosa che con risposta iniziale dice Charles Dickens o Kipling, punto di domanda. Quindi ci ha pensato un attimo. Grazie Rosa, grazie Luigi, grazie Andrea. E su queste note facciamo i complimenti a Cristina che ha risposto subito, esatto, puntuale, Kipling. Quindi insomma abbiamo degli ascoltatori e delle ascoltatrici molto molto colti. Questo sarei molto quasi piacere. Curiosa di chiedere a Cristina se ha risposto, per me sa anche il titolo del racconto da cui è tratto. E a questo punto c'è un premio aggiuntivo, l'autografo di Silvia Albertazzi. No, no, non credo che gliene possa interessare di meno. Ma chi lo sa, intanto complimenti. Comunque, no, invece lo dico io perché è uno dei racconti più famosi sull'esperienza indiana di Kipling ed è anche uno dei più famosi racconti, diciamo così, vagamente horror della letteratura inglese ottocentesca, che è Il marchio della bestia. Il marchio della bestia Kipling ha questo incipit azzeccato da Cristina per avere Ti ho amato per la tua voce, edizioni E.O. L'autore? Selim Nasib. Si può ritirare in libreria Ubik già da oggi pomeriggio, passo in libreria e quindi ci sarà questo lavoro per te, Cristina. Complimenti e grazie a tutte e a tutti. Abbiamo delle piacevoli invasioni, Silvia, così noi portiamo anche l'anticipazione alle 9.30, come di consueto, la rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquali e Piero Di Domenico. Siccome però siamo in radio, spieghiamo che cos'era l'invasione. L'entrata attesa di Alfredo, così insomma, per motivi tecnici. Sì. Di loro leggete tutto. Di loro leggete tutto. Di Alfredo Pasquali? No, di Alfredo Pasquali bisogna leggere alcune cose. È un autore che a volte io ho criticato. Leggete alcune cose di Alfredo Pasquali, non tutto, anche se tu l'hai paragonato a Proust. No! Chi l'hai paragonato? No. Hai dato un paragone eretico. Non mi ricordo, ma era il libro su Cipollino. Esatto. Non penso che Cipollino... L'avrò paragonata a Rodari al massimo. Hai dato un paragone altisonante adesso. No, non mi ricordo, una cosa di un paio d'anni fa. È un peccato di gioventù che non vuoi ammettere. Però senza dubbio a Proust no, perché Proust con Cipollino non ci azzecca niente. Allora, leggete tutto invece, se poi volete anche di Alfredo Pasquali ci mancherebbe, ma leggete tutto soprattutto dei fratelli Singer, due fratelli, Israel Joshua Singer, il fratello Joshua Baevis Singer e anche la sorella Esther Singer. Oddio, la sorella non la conoscevo, mi manca. Vedi, anche la sorella, un'autrice in lingua yiddish molto, molto talentuosa. Intanto arriva, dopo la famiglia Karnofsky, uno dei libri più belli in assoluto che io abbia letto. Beh, Israel Joshua Singer ha dei percorsi storici illuminanti per capire il presente, fondamentali secondo me. Dopo la famiglia Karnofsky ed altri lavori arriva con la sua modalità di scrittura, se vogliamo schematica, chiara, emozionante, per capitoli, strutturati in maniera molto lucida, una raccolta per la prima volta pubblicata. Viene scritta nel 1924, lui lavora come giornalista e come reporter, viene da questo quotidiano in lingua yiddish Forwards da New York, come inviato portato nella neonata Unione Sovietica, siamo nel 1924, per un reportage e per conoscere determinati aspetti di percorso dalla nuova Russia, quindi dal 1905 con la rivoluzione che ha portato, seppur fallita, lo zar a delle concessioni importanti, fino all'arrivo del potere ai soviet e come lo il gravissimo tallone stalinista ha portato invece un ritorno inquietante a quelli che sono stati i percorsi anche cruenti. La nuova Russia di Israel Joshua Singer è un lavoro secondo me bellissimo che consiglio caldamente, già dalla copertina, un lavoro di Malevich, un inglese a Mosca, sapete Malevich, questo autore d'avanguardia, fenomeno assoluto. Comunque torniamo alla nuova Russia di Israel Joshua Singer, tra l'altro suo fratello vince un Nobel per la letteratura, ma questo è una nota per così dire di percorso che aggiungo lateralmente. Suo fratello minore stesso, il premio Nobel Isaac Bashevis Singer, lo definiva scettico fino al midollo, lo criticava, ma questo grand tour nella Russia dei soviet ha una, come ho detto, lucidità incredibile. La descrizione appunto della grande illusione, la descrizione in maniera concreta di tutto quello che è stato fondamentale per questo grande cambiamento, nel bene anche negli aspetti più oscuri, un viaggio con delle tinte bellissime, un viaggio che riporta l'attenzione a quello che nel passato, diviso in capitoli, viene poi ripreso in un presente che, come ho detto, utilissimo per la comprensione di determinati contenuti di percorso che hanno portato anche ai recenti accadimenti. È il 1924 quando viene inviato dal quotidiano yiddish di New York, The Air Forwards, viene inviato con un viaggio itinerante tra l'Unione Sovietica, con tutti quelli che sono le diversificazioni, le stratificazioni, le realtà appunto così eterogenee, così differenti tra di loro, consacrate in nome di una fratellanza socialista che, come ho detto, ripresa certamente e non condannata da Singer, anzi tutt'altro, viene condannato lo stalinismo, viene criticata la burocrazia, vengono criticati i controlli di una polizia molto molto presente, viene invece rafforzato quello che ne è un contenuto ideale e socialista. Nella Nuova Russia tutto ciò diviso in capitoli che appartengono alla geografia. Io ne ho una grande passione, quindi dalla Bielorussia fino ai paesi del Caucaso, fino allo spostamento nell'Asia, insomma un'estensione geografica ma anche una eterogeneità importante per quanto riguarda la mentalità in un paese che è il più grande del mondo ed è anche il più diversificato, riunito sotto un'unica bandiera. È la Nuova Russia di Israel J. Singer. Mettiamo uno stacco musicale e poi rientriamo, perché alcune cose sono da sottolineare all'interno di questo lavoro. Anche la playlist di Silvia con qualche nota, questo brano come quello di apertura, di rientro, che troviamo in una collezione doppia. Sì, che hai messo è una doppia playlist. Collezione, in realtà non sono egiziani questi, sono sudanesi, è una collezione che si intitola Two Miles to Sing a Melody, The Violins and Synths of Sudan, quindi i violini e i sintetizzatori del Sudan. Ci sono tra la tradizione e il contemporaneo. Sì, ci sono tanti autori, tanti esecutori, e praticamente sono, 16 brani, perché è un disco doppio, 8 brani per parte, e di questi 16 brani solo due, quelli che abbiamo sentiti, sono interpretati da donne. E come avete reperito questi dischi? Questo lo chiedi da Stefano. Questo è Stefano, che ringrazio peraltro. I dischi che sentiamo stamattina sono tutti di Stefano. Io conoscevo Exotica perché ho visto il film. Che mi è piaciuto moltissimo tanti anni fa, ma gli altri proprio sono li ha cercati nella sua collezione Stefano. Onore al merito, bravo, grazie. Ma naturalmente lui non parla. Certo, questo l'ascoltatrice e l'ascoltatore attento l'ha già intuito. Ma ciao al massimo lui, eh. Sì, lui è tipo Buster Keaton. È un mimo. Un mimo. Siamo stati dappertutto, dice lei, Berlino, Parigi, Vienna, e non abbiamo visto una sola rappresentazione che avesse un minimo di interesse. Parigi si è rivelata particolarmente misera, a parte le nudità, non avevano proprio nulla da mostrare. A suo marito dell'Europa non è piaciuto proprio niente. Dice, l'Europa è un unico gigantesco lacchè. Non fanno altro che inchinarsi di fronte a qualcuno. Che schifo! Il diplomatico polacco fa una battuta. Non di meno, signori miei, dice indicando i bauli e le valigie stracolmi dall'artistica coppia, sembra che dall'Europa vi siete però portati a casa qualcosina, eh? Beh, i vestiti, sì, dice l'attrice. Le carni nude e gli abiti di sicuro non mancavano da quelle parti. Faccio notare che i russi solo di recente hanno sviluppato un forte senso patriottico, un fenomeno strano, dato che salvo poche eccezioni erano soliti additare come scadente e volgare tutto ciò che veniva dal loro paese. Beh, lo ammettono loro stessi. È vero, siamo diventati patriottici. Allora, il viaggio del protagonista, qui in questo caso Singer, in questa raccolta di racconti, di capitoli, tutti collegati fra di loro da questa rotaia che è la storia, che è la bellezza, che è l'emozione, che sono le difficoltà, che è di tutto. La protagonista in questa critica è un'attrice, una coppia di attori che si recano in Europa, attori di teatro, e trovano motivo di delusione, trovano un motivo di povertà intellettuale e culturale, e la criticano ovviamente. Arriva la risposta: sì, però vi siete portati a casa qualcosa con i due bauli pieni che avevano, insomma, e quindi botta e risposta costante nel dialogo, come ho letto da questa piccola parte del capitolo della Nuova Russia dedicata al viaggio, dedicato al percorso e soprattutto all'eterogeneità di un territorio veramente immenso, riportato poi sotto la bandiera dei Soviet. E la critica così dice: certo, sul Cremlino ho visto la bandiera del Soviet, bene, ma ho visto anche di fianco la bandiera imperiale russa, e questo mi ha portato ad alcune riflessioni, dice Israel Joshua Singer. Non mancherà il viaggio ovviamente anche a Leningrado. Allora Leningrado la chiamiamo con il suo nome, no? Che poi da Pietroburgo diventerà San Pietroburgo. Insomma, i percorsi poi sono ripresi qui, quindi se ne volete sapere di più e da leggere questo libro bellissimo, La Nuova Russia, le edizioni sono a Delfi, come tutti i lavori di Singer. Però, visto che siamo a Leningrado, a questo punto, patria dell'immenso Dostoevskij, città dell'immenso Dostoevskij, il quiz è proprio per me molto facile, però è incentrato sulla città. È una definizione che ha a che fare con l'arte, anche se è la strada principale. Come viene definita? Non è né viale, né via, né corso, ma un nome ben preciso che riporta anche a un'idea di struttura artistica. La puntini puntini puntini Nevskij. Qual è il nome di questa strada per definizione? Si chiama via Nevskij, viale Nevskij? No, ha un altro nome che ha a che fare con l'arte. Se me lo scrive al 333-180-9494, per voi La Nuova Russia, molto bello, di Singer. You ask me why it is I come to you when someone else is just as good. I asked them but they said the same, didn't even ask my name. Explain to me. No, Luca, non è la veduta Nevskij. Comunque grazie per aver partecipato al quiz che ho appena proposto. Intanto ci ringrazia Cristina, che dice: non vedo l'ora di leggere il libro presentato da Silvia poc'anzi. Il vincitore o vincitrice è Sara. Risposta esatta di Luigi. Beh, quiz molto semplice, però insomma, dai, sono ben contento di averlo portato e Luigi ritorna vincitore. Ringrazio anche Gianluca, arrivato un pochettino dopo rispetto a Luigi sulla prospettiva Nevskij. Ci ho preso un tè sotto ad un bar con la scritta Singer. Pensa un Vemmo. Po'. Vemmo. Comunque c'è anche una famosissima canzone di Battiato che parla della prospettiva, sì, Nevskij. È vero, ma adesso io non sono così, non sono, anche perché manca veramente poco. Anzi, siamo in ritardo, dobbiamo salutare. Vi ringraziamo tantissimo per aver giocato. I libri sono a disposizione per Cristina e Luigi alla libreria Ubic di Virnerio 27, che a sua volta collabora con il Breakfast Club nel Voltiamo Pagina. Domani andiamo in mostra con Toulouse-Lautrec. Quindi vi invito a colazione alle ore 7. Grazie Silvia, ci dobbiamo salutare. Grazie per la musica, per la bellissima presentazione di tutto. Ora è il momento del video. Ok, grazie a Sei tutti. Sei pronta? Certo, dai, ciao a tutte e tutti. Ciao, a mercoledì prossimo, a domani con il Breakfast.